sia soltanto il desiderio a raccontarmi quale uomo io sono. E quale bestia. O quale amante. E sia forte il taglio che mi divida il destino, che abbia per matti. Senza testa e senza coda rimangono immobili nelle decisioni della vita. E quale tristezza li avvolge? Quale immutabile eternità fatta di piccole cose, piccole gioie? Quali i sogni e quali desideri lasciano volare le fragili persone che siamo? Ognuno aggrappato alla propria terra, sperando di costruirvi sopra una famiglia e una vita. Quali geni nell'inventare storie nuove per farne inutili balocchi. Ma quanti sogni quanti volti.